Incontri di Gianfranco Fabi. Con queste note un po' celestiali, molto conosciute, ma forse non tutti sanno che si tratta del canone in re di Johann Pachelbel, iniziamo l'incontro di oggi, incontro con Francesco Sansone. Vi dirò tra un attimo chi è Francesco Sansone, ma prima facciamo dire a lui perché ha scelto questa musica così dolce ma anche così in fondo sacra. Ma direi che è una musica che mi ha sempre appassionato fin da ragazzo, quindi... Poi devo dire che composi anche, avevo 18 anni, un brano musicale nel bosco di querce sul lago di Cigni, nell'oscura grotta sull'alta montagna, il fuoco, la neve, l'acqua, la paglia, il sole, la luna, qualcosa che brilla. Era. Ah, quindi anche c'è un Francesco Sansone, musicista e poeta, anche sì. Oltre che essere executive chairman di Valore Consulting, che è una società di consulenza nell'ambito soprattutto dell'impresa, della funzionalità dell'impresa, dell'organizzazione, del lavoro all'interno dell'impresa, ed essere referente per la Lombardia della Fondazione Centesimus Annus. Poi ci spiegherà Sansone che cosa è e cosa fa la Fondazione Centesimus Annus. Ecco, ma torniamo un po' alla musica. La musica è qualcosa di bello, qualcosa di importante nella vita delle persone, qualcosa che aiuta a capire un po' anche il senso proprio della bellezza. Cosa c'entra la musica con il lavoro? Ma devo dire che la musica costituisce la dimensione, come tu dicevi, estetica della vita, della nostra esistenza, che ci conduce ad apprezzare il bello. Oggi siamo decisamente nell'economia della conoscenza, questo periodo della new economy o knowledge economy, come si suol dire, è iniziato, come sappiamo, agli inizi della fine degli anni 90, quindi siamo nel pieno dell'economia della conoscenza, con tutta una serie di conseguenze che poi, se vuoi, possiamo accennare rispetto all'impatto poi con il mondo del lavoro e con l'impresa, ma evidentemente ci stiamo portando verso l'economia della bellezza. E questo quindi è un senso di un'economia non più basata solo sulle quantità, ma anche sulle qualità e soprattutto sulle persone. Assolutamente, assolutamente, perché oggi il mercato sappiamo che non dico rifiuta, ma certamente non apprezza un lavoro semplicemente ben fatto, ma apprezza molto e premia i lavori belli, un bel lavoro. Quindi il segreto oggi per vincere nella competizione da parte delle imprese è quello di fare un bel lavoro. Ma tornando al tema della bellezza e quindi della musica, io, come sai, sono autore di un modello relativo appunto al pensiero flessibile, no? Che è una dimensione, una nuova dimensione della mente, e che rispetto all'ambito più noto, no? Della creatività, che ha costituito, diciamo così, in qualche modo negli ultimi anni una forte attenzione da parte sia delle imprese ma anche così delle persone, degli studenti, dei lavoratori. In realtà la flessibilità è l'integrazione tra la bellezza, quindi tutto quello che è la relazionalità, la musica, l'arte, l'economia nel senso di logica, di aderenza ai numeri, e infine l'etica nel senso di etica aristotelica. Io mi faccio riferimento all'etica nicomachea, no? Di Aristotele, ovvero le virtù umane. Allora la persona flessibile è la persona che riesce a coniugare, ad integrare in maniera armonica Queste tre dimensioni, la bellezza, la logica e l'etica. Ecco, ma c'è, tornando al concreto, una domanda da parte delle imprese nel pensare, nel vedere, nel proporsi di studiare in questa dimensione una possibilità di organizzazione interna, un'organizzazione che abbia questi valori di fondo e che non si basi solo su un ritorno degli investimenti, un ritorno del profitto, un ritorno sui valori unicamente materiali. Sì, da questo senz'altro l'impresa oggi ha compreso o sta comprendendo molto lentamente, devo dire, che l'asset strategico è la persona, sono le persone. Pertanto il modello di azienda come comunità di persone, ovvero sia l'azienda la cui finalità a questo punto non è più il profitto, ma il profitto in quanto indicatore del benessere o del buon funzionamento dell'impresa, l'obiettivo dell'impresa piuttosto essendo il benessere delle persone. Se noi ci pensiamo, in realtà, perché un'azienda ha ragione di esistere? Ha ragione di esistere perché produce beni o servizi che sono finalizzati al miglioramento della qualità della vita di altre persone, per cui fondamentalmente persone che lavorano per altre persone. Quindi quando l'impresa assolve questo ruolo di generatore di valore, che ovviamente deve viaggiare in parallelo alla presenza del profitto, che giustifica la stessa ragion d'essere dell'impresa, senza profitto certo. Sappiamo che l'impresa cessa di esistere, ecco, ma è uno spostamento di valori. Ecco, questo devo dire senza neppure scomodare, tra virgolette, insiemi valoriali, confessionali. Ecco, il tema oggi direi che la strada migliore per affrontarlo è quello, proprio come tu dicevi, considerando un po' la realtà concreta, quindi dove l'azienda ha successo. Ha successo quando, sappiamo, nella Social Corporate Responsibility, sappiamo che in effetti quando lavora nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto del... Sì, indubbiamente nel rispetto delle compatibilità esterne in cui anche l'azienda deve operare. Ecco, ma io farei un passo indietro per concludere un po' questa prima parte del nostro incontro, spiegando come nasce la tua esperienza, come nasce Francesco Sansone, come si diventa chairman di una società di consulenza. Ma io sono nato antropologo. Per cui sulle note appunto del canone in re, in effetti ho sempre sognato lo studio della persona, dell'uomo, mi sono sempre chiesto come nasciamo, da dove veniamo, come saltiamo fuori, perché resta pur sempre un mistero, no? Evidentemente l'essere umano per la sua meravigliosa e direi inspiegabile capacità di la stessa, il nostro pensiero è qualcosa che realmente sfugge alle categorie umane dell'intelligenza umana, perché se ci pensiamo qualcosa che è davvero straordinario. E quindi sono stato sempre appassionato dall'uomo, quindi nasco come antropologo, incontro la mia attuale moglie che mi induce a considerare qualche cosa di più concreto per evidentemente ecco. E quindi primum vivere ed ende filosofare, esattamente, allora come dire, rimedio per, tra virgolette, sulla psicologia, quindi mi laureo in psicologia e insomma in psicoterapia, perché era un'attività e tuttora è un'attività nobile, che insomma per cui io inizio ormai più di 20 anni fa, nell'87 a Milano, come in qualche maniera antropologo, psicoterapeuta, eccetera. Poi incontro la psicologia del lavoro, ecco, rendo grazie evidentemente al mio maestro, al professor Calogero Di Naro, tra i fondatori della psicologia del lavoro in Italia, da qualche anno appunto scomparso. Ecco, incontro lui e mi introduce nella psicologia del lavoro, e quindi inizio la mia carriera di, se vogliamo, antropologo osservatore dell'impresa, no? In effetti, insomma. Ecco, quindi una carriera in cui l'economia si raggiunge attraverso le basi, perché poi l'economia è formata da antropologia, psicologia, sociologia. Una vera economia è quella che sa mettere insieme tutte queste scienze e capire appunto dove va la persona e dove va la società. Assolutamente, Gianfranco. Incontri. Ancora con le note del canone in re di Johann Pachelbel, iniziamo questa seconda parte del nostro incontro con Francesco Sansone, Executive Chairman di Valore Consulting, referente per la Lombardia della Fondazione Centesimus Annus. Ecco, queste note in fondo sono note gioiose, note che si adattano bene al giorno di oggi. Oggi è Pasqua, quindi possiamo fare gli auguri di Pasqua anche con questa musica. Assolutamente, assolutamente sì, auguri, auguri di cuore di Pasqua e per tutti i cristiani e i cattolici, io lo sono evidentemente, Pasqua è il giorno più importante dell'anno, naturalmente, e quindi San Paolo diceva, no, se non crediamo nella risurrezione la nostra fede è vana, no? Quindi evidentemente auguri di Pasqua di cuore a tutti gli ascoltatori. Ecco, una fede che si traduce anche all'ambizione, possiamo dire, posso usare questo termine, di tradursi anche in dottrina sociale. Sì. E qui entriamo nel tema della Centesimus Annus. Cos'è la Fondazione Centesimus Annus? La Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, questa è una nota molto importante, è un privilegio che ha la Fondazione, ovvero sia è nata proprio per sostenere, intanto contribuire alla carità del Santo Padre attraverso dei contributi economici che vengono assicurati dalla nostra fondazione al Santo Padre, e la diffusione, il secondo obiettivo statutario, è la diffusione della dottrina sociale della Chiesa nelle imprese e nei contesti qualificati attraverso attività diverse. La Fondazione Centesimus Annus è nata nel 93, è stata voluta da... Subito dopo, perché la Centesimus Annus è del 91, quindi è stata... Fu pubblicato nel 91 e subito dopo, immediatamente dopo, un gruppo di imprenditori italiani si riunirono intorno a Giovanni Paolo II e vollero proprio costituire, su incoraggiamento di Giovanni Paolo II, questa iniziativa che ora è del tutto internazionale, nel senso che è nata con vocazione universale perché ha sede in Vaticano ed è realmente presente in molti paesi del mondo. Ecco, la Centesimus Annus di Giovanni Paolo II, appunto, tra l'altro verrà beatificato tra qualche giorno a Roma, ecco, è stata un po' un punto molto forte del pontificato di quel Papa, un punto molto forte, Centesimus Annus, perché ricordava i 100 anni della Rerum Novarum, che è stata appunto nel 1891 la prima enciclica che affrontava i temi sociali. Però la Centesimus Annus ha dato un po' una svolta, se si può dire, nella dinamica che comunque anche il pensiero della Chiesa sul tema della società, sul tema della dottrina sociale, ha avuto un suo percorso, un suo non tanto adattamento ai tempi quanto una ricerca di capire e di approfondire, di dare delle indicazioni per come affrontare i tempi sotto il profilo economico e sociale. Ecco, la Centesimus Annus è stata un po' una svolta, anche perché è nata dopo, subito dopo la caduta del muro di Berlino, quindi l'apertura dei paesi dell'est, un altro grande risultato, un altro grande portato in fondo di Giovanni Paolo II. Un'enciclica che merita ancora di essere vista, approfondita, riletta e studiata. Francesco Sansone. Assolutamente sì, resta un pilastro nella dottrina sociale della Chiesa. E sappiamo che recentemente il Papa Benedetto XVI ha pubblicato Caritas in Veritate, riprendendo appunto alcuni aspetti di encicliche precedenti, ma devo dire che è universalmente riconosciuto che Centesimus Annus costituisce un pilastro, proprio per questa sua sottolineatura al valore legittimo intanto del profitto, che era stato già senz'altro affermato nelle cicche precedenti, in particolare appunto nella prima che tu hai citato di Leone XIII, Rerum Novarum, ma nella Centesimus Annus questo viene identificato, e c'è il paragrafo, se non ricordo male, 43 di Centesimus Annus, che è molto bello, perché Giovanni Paolo II in quel paragrafo ricompone e nel giusto ruolo il profitto, l'obiettivo dell'impresa. Dicevamo prima, l'obiettivo dell'impresa è senz'altro la creazione di valore, ovvero sia l'azienda come comunità di persone che lavorano per altre persone. E cos'è significativo che proprio Centesimus Annus, per definire l'economia libera, l'economia di che di solitamente chiamiamo economia di mercato, parla di economia di impresa, come l'impresa come realtà centrale dell'economia, come realtà capace appunto di mettere a frutto anche le potenzialità di ogni singola persona. Assolutamente sì, e qui è un altro degli aspetti citati, cioè approfonditi dall'enciclica, e che il Papa Giovanni Paolo II aveva, come dire, approfondito meglio nella Labor Exchanges, ovvero sia la dimensione soggettiva del lavoro, cioè il significato che il lavoro ha per la persona, per il lavoratore. Sappiamo che un lavoro che non ha un significato rispetto alla crescita della persona, che non ha un significato, ecco, che non riguarda dimensioni interiori o anche personali del lavoratore, è un lavoro che è un lavoro che aliena, no? Ecco, quindi la dimensione soggettiva del lavoro insieme al ruolo del lavoro come mezzo, vorrei dire, di perfezionamento anche personale, ovvero sia il lavoro non solo come servizio reso al prossimo e quindi per il proprio sostentamento, ma in tutte le lingue sappiamo che esiste una differenza anche semantica, no? Tra i due significati di lavoro, labor e opus, il concetto di fatica, di travaglio, certo, del lavoro, e il concetto creativo, no? Del lavoro. Ecco, questo Giovanni Paolo II l'ha significato molto bene. E direi costituisce. In fondo anche la Chiesa ha fatto un processo di cambiamento, nel senso che molto spesso era visto in passato il lavoro come una dannazione, come una conseguenza, sì, del peccato originale, e invece il lavoro è sempre di più valutato come qualcosa che continua l'opera del creatore, quindi qualcosa di positivo per la persona e per la società in cui questo si svolge. In questo anche la dinamica del pensiero della Chiesa ha certamente fatto dei passi in avanti. Assolutamente. Io credo che sia anche una questione di onestà intellettuale quella di effettivamente, negli ambiti in cui si accendono questi temi, negli ambiti, diciamo, laici, in cui si accendono questi temi del significato del lavoro piuttosto che dell'azienda come comunità di persone, o anche dell'economia della conoscenza, che Giovanni Paolo II nel 91 fu tra i primissimi che parlò a livello anche per quanto riguarda gli economisti, che parlò di economia della conoscenza, che sappiamo che poi ebbe luogo effettivamente alla fine, solamente alla fine degli anni 90, quindi fu un precursore Giovanni Paolo II. Ecco, quindi credo che sia necessario, proprio per un concetto di unità intellettuale, riconoscere i tanti contributi che la dottrina sociale della Chiesa ha dato alla cultura del lavoro, alla cultura dell'impresa, e perché sappiamo, come tu ricordavi, che la dottrina sociale della Chiesa è l'insieme, il corpus costituito dalle encicliche di tutti i papi, dal magistero, eccetera, che ha più di un secolo. Per cui è più di un secolo che la Chiesa ragiona su queste cose. Ecco, la realtà italiana è una realtà fatta di piccole e medie imprese, di aziende familiari, è una realtà in cui questa dottrina può avere anche dei terreni fruttuosi su cui, in cui emergere, in cui far riflettere, in cui indirizzare appunto per creare valore, come in fondo il nome della tua impresa, per creare valore all'interno delle imprese e per dare poi un senso all'impegno di ciascuno, un senso che è qualcosa di fondamentale proprio per dare una possibilità a ciascuno di esprimersi secondo le proprie possibilità. Quindi possiamo essere ottimisti un po', avviandoci alla conclusione di questo nostro dialogo sul fronte di questa realtà italiana. Come giudichi la realtà italiana? Molto distratta, molto direi solo apparentemente sensibile ai temi che abbiamo trattato, ovvero sia solamente a parte poche esperienze di successo, che poi sono di successo anche nei conti economici, no? Mi riferisco alle imprese che hanno adottato questi principi, non voglio fare nomi, ma vi sono grandi aziende quotate in borsa che in effetti realmente mettono la persona al centro. Ecco, a parte alcuni casi successo, ecco, diciamo che la mia sensazione, ma anche direi dal mio osservatorio che è in contatto con questo mondo delle medie imprese, il problema è che si è troppo eccessivamente orientati a guardare il proprio naso, nel senso che non si guarda domani, non si guarda dopodomani, c'è una visione di brevissimo periodo. Ecco, probabilmente sono ottimista, perché alla fine se con Confindustria, come sai, stiamo realizzando un ciclo di incontri sul tema capitale umano e innovazione in diverse città italiane, e devo dire che questi temi che noi abbiamo accennato oggi, nel momento in cui tra gli imprenditori vengono posti al centro del tavolo, suscitano un grande dibattito, una grande attenzione. Quindi sono ottimista nella possibilità di senz'altro andare per questa strada, anche se il cammino è piuttosto impegnativo. Un ottimismo fondato non solo sulla sensazione, ma anche sulla realtà, sulla concretezza delle cose, soprattutto direi sulla concretezza di questo giorno di Pasqua. Facciamo ancora gli auguri a quanti ci hanno ascoltato, ci hanno fatto, speriamo di aver fatto compagnia in questo pomeriggio pasquale. Io ringrazio Francesco Sansone, Executive Chairman di Valore Consulting e referente per la Lombardia della Fondazione Centenarius Annus, di essere stato con noi. Così come ringrazio Fabio Cantadori in regia e Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona Pasqua.